felice vivo solo d'amore. Come un raggio di luna, era freddo il mio cuore, senza un caldo sapore dei tuoi baci d'amore. Asciugavo il mio pianto tra le braccia del thank you.